Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Sebbene quasi 500 reattori siano oggi in funzione nel mondo e vari paesi, tra cui Cina, India e Stati Uniti, abbiano programmi nucleari significativi, oggi l'energia nucleare non attraversa certo un bel momento se consideriamo l'incidente di Fukushima, la mancata soluzione del problema delle scorie, per cui non esiste un solo deposito definitivo in tutto il mondo, il rischio di proliferazione nucleare e parallelamente quello che il combustibile nucleare finisca. Tuttavia la comunità internazionale ha da tempo individuato una serie di tecnologie che farebbero fare passi da gigante al nucleare su tutti questi fronti. È il cosiddetto nucleare di quarta generazione di cui ci occuperemo questa sera e anche domani sera. Ne ho parlato con Marco Ricotti, professore di ingegneria nucleare al Politecnico di Milano. Sentiamo la prima parte dell'intervista. Quali sono gli obiettivi che si vogliono raggiungere con questo cosiddetto nucleare di quarta generazione? Ma gli obiettivi strategici che si intendono raggiungere sono essenzialmente quattro. Il primo è di aumentare ulteriormente il livello di sicurezza, quindi fare reattori che si spengano naturalmente. Il secondo è di aumentare la cosiddetta sostenibilità del ciclo del combustibile, quindi sfruttare appieno l'uranio, non solo lo 0,7% dell'isotopo 235. Il terzo è l'economicità e il quarto è la riduzione dei rischi di proliferazione. Per quanto riguarda il miglioramento della sicurezza, si parla per la quarta generazione, in teoria anche per eventualmente alcuni miglioramenti della cosiddetta terza generazione, si parla di sicurezza passiva. Che cosa significa? Ma la sicurezza passiva, i sistemi di sicurezza passiva sono quei sistemi che non necessitano di energia e neanche di intervento umano per funzionare. Pensiamo all'idea di piazzare una piscina piena d'acqua utile per il raffreddamento ad una quota superiore a quella del reattore, quindi sul tetto della centrale. A questo punto basta aprire una valvola e l'acqua entrerà all'interno del reattore per gravità. O se si crepa, se si rompe il tetto, che può succedere. E a quel punto l'acqua cade naturalmente. Il secondo relativo al mantenimento in funzione del reattore stesso, quindi la reazione di fissione a catena, è possibile concepire il reattore in modo tale che se qualcosa va storto la reazione nucleare si spenga naturalmente. Cioè quello che abbiamo visto accadere nel caso di Chernobyl piuttosto che nel caso di Fukushima, cioè si perde il controllo e a questo punto si surriscalda tutto. Esatto, si distrugge tutto, lì succederebbe il contrario. Se si perde il controllo, siccome queste robe vanno mantenute accese per funzionare, il reattore tenderebbe a spegnersi per i fatti suoi, insomma. E questa è appunto sicurezza cosiddetta passiva, cioè dipende dalle leggi della natura e non dall'intervento di qualche meccanismo esterno. Forse ancor più sentito del tema della sicurezza c'è il tema delle scorie. Lo dimostra il fatto che oggi non esistono in tutto il mondo depositi, diciamo, definitivi, per esempio i cosiddetti depositi geologici per le scorie nucleari. Una delle prospettive più interessanti proprio della quarta generazione è legata, ecco se non sbaglio, allo sviluppo di cicli del combustibile che producono delle scorie con una pericolosità molto minore, nel senso che la loro radioattività, invece che durare decine di migliaia di anni, dura addirittura qualche secolo. Ho capito bene qual è questo? Uno degli aspetti più interessanti dei reattori di quarta generazione è proprio lo sviluppo di soluzioni per ridurre la produzione dei rifiuti nucleari, anzi addirittura per tentare di bruciarli. Normalmente un reattore nucleare quando funziona produce essenzialmente due tipi di rifiuti radioattivi importanti: i prodotti di fissione, che sono appunto risultato della rottura della fissione dell'uranio 235, come il cesio, lo iodio che abbiamo imparato a conoscere con Chernobyl, sì, e con Fukushima. Il secondo invece tipo di rifiuti sono i cosiddetti transuranici, quindi sono più grandi dell'uranio 238. Questo perché l'uranio può catturare i neutroni e diventare sempre più grosso, diventa plutonio, americio oppure nettunio. Ecco, alcuni prodotti di fissione e molti transuranici, pur avendo una massa molto piccola, si tratta del meno dell'1% del combustibile, sono radioattivi, radiotossici per molti anni, direi circa 100.000 anni. Con i reattori veloci di quarta generazione e usando anche dei processi di separazione di questi rifiuti radiochimici, l'idea è proprio di bruciare, di rompere questi rifiuti e ridurre la radiotossicità da 100.000 anni a 300 anni, quindi senza scomodare le piramidi che hanno 7.000 anni, direi che è un periodo di tempo gestibile. Diciamo che fare un contenitore in grado di resistere anche in condizioni difficili per 300 anni è abbastanza facile, no? Un contenitore è anche un edificio, certo. Sì, infatti, appunto. Mentre fare una roba che resiste per 100.000 anni è un bel punto di domanda, no? Bisogna usare delle soluzioni geologiche, delle strutture geologiche stabili per 100.000 o un milione di anni, sì. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani per la seconda puntata sul nucleare di quarta generazione. Buona serata.